24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Cristina Carpinelli, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le brutte notizie di fine settimana che riguardano la disoccupazione in Spagna, che sale al 24,44%, mai così alta da 18 anni. La notizia arriva all'indomani del taglio di rating da parte di Standard & Poor's. Le borse europee chiudono bene la settimana, spinte anche dai dati americani. Il PIL degli Stati Uniti nel primo trimestre 2012 segna una crescita del 2,2% dopo il rialzo del 3% registrato nell'ultimo trimestre del 2011. Oggi vi racconteremo anche della grave crisi che sta attraversando l'Ucraina e dei numerosi attentati che hanno scosso il paese. In apertura l'incontro che si è tenuto a Bruxelles tra il premier italiano Mario Monti e il capo della Commissione europea Barroso, al centro ovviamente la crescita economica e gli investimenti pubblici. È durato oltre un'ora e mezza l'incontro che il presidente del Consiglio Mario Monti ha avuto con il presidente della Commissione José Manuel Barroso. I due hanno parlato della situazione economica, del modo di rilanciare la crescita nella zona euro, per evitare che il rigore al bilancio diventi fine a se stesso e crei nuove pericolose tensioni politiche e sociali. I due nuovi uomini politici sono d'accordo sulla necessità di lanciare investimenti pubblici per rafforzare la domanda interna. Un consenso sta emergendo anche in Europa. La sfida è trovare una soluzione che sia abbastanza ambiziosa per essere efficace in tempi di ristrettezza finanziaria. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La disoccupazione in Spagna sale al 24,44%, mai così alta da 18 anni. A comunicare il dato record anche a livello europeo è stato l'Istituto Nazionale di Statistica. La notizia arriva all'indomani del taglio di rating da parte di Standard & Poor's, sia sul lungo che sul breve termine. Secondo gli esperti la situazione dovrebbe restare difficile almeno fino al prossimo anno. Commenti dall'Europa arrivano sul declassamento della Spagna e sui dati della disoccupazione nel paese. Ce ne dà conto il collega del Sole 24 Ore, Luca Veronese. Si complica la crisi spagnola, la Spagna è sempre più al centro della crisi del debito, della crisi economica europea e c'è preoccupazione sui mercati e in tutti i partner europei per la situazione di Madrid. E questa mattina l'agenzia Standard & Poor's, l'agenzia di rating americana, ha deciso di tagliare nuovamente il rating sul debito della Spagna, portandolo da A a BBB+. Con conseguenze e ricadute ovviamente sui titoli, sull'affidabilità della Spagna, giudicata insufficiente a causa dell'indebitamento e della posizione esposta delle banche spagnole stesse, che oltre a subire i danni del crollo del settore immobiliare, hanno adesso in pancia anche un bel po' di titoli di bond, quindi di paesi periferici come la Spagna, che ne appesantiscono i bilanci. Dall'Unione Europea è arrivato appunto il sostegno, ma preoccupa sempre di più la crisi interna alla Spagna, con la disoccupazione salita al 24,4%, i massimi da 18 anni. PIL degli Stati Uniti nel primo trimestre 2012 ha segnato una crescita del 2,2% dopo il rialzo del 3% registrato nell'ultimo trimestre del 2011. Il dato è inferiore alle attese degli economisti che puntavano su un 2,5%. La notizia comunque era nell'aria e le borse europee chiudono la settimana in positivo. I listini europei mettono a segno un'altra seduta positiva, snobbando il declassamento della Spagna da parte di Standard & Poor's e la crescita sotto le attese, più 2,2%, del PIL americano nel primo trimestre. A spingere le borse sono i titoli finanziari e a Milano anche quelli della moda, sulla scia dell'esordio boom di Brunello Cucinelli, che ha chiuso in rialzo di circa il 50%. Così ieri, mentre Francoforte ha guadagnato lo 0,9% e Parigi l'1,1%, a Milano il FTSE MIB ha chiuso a più 1,85%. Dopo il crollo di lunedì, il listino di Piazza Affari ha recuperato il 6,7%. Sul listino principale, come detto, fiammate delle banche, a partire da Monte Paschi, più 7,5%, BPM, più 6,8% e A2A, più 5,1%, con la soluzione per Edison ormai addirittura finale. Rimbalzano anche Fiat Industrial e Prismian, in rialzo del 4%, mentre Ferragamo, più 3,9%, tocca i massimi storici 10 grazie al balzo del lusso. Realizzi invece su Tenaris e ST, due titoli che avevano ben performato nelle ultime sedute. Realizzi infine anche su Fonsai, meno 2% dopo lo stop dell'antitrust alla fusione con Unipol. Ciò Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Sono 27 le persone rimaste ferite nelle numerose esplosioni che si sono verificate venerdì mattina nell'Ucraina orientale. I media locali riferiscono che un'esplosione è venuta a una fermata del bus, un'altra davanti ad un cinema. Gli ordigni erano piazzati dentro dei cassonetti della spazzatura. Vista la situazione drammatica, i politici europei devono riflettere sull'opportunità di andare in Ucraina durante gli europei di calcio. Ha il senso di un invito al boicottaggio politico di Euro 2012 la lettera che la vicepresidente Presidente della Commissione europea e responsabile europea per la giustizia, Reding, ha inviato al presidente della UEFA, Michel Platini. Quando fu scelta come sede dei campionati europei, l'Ucraina sembrava molto più stabile. Agli europei di calcio manca più di un mese, ma la Germania è già in campo. Non per difendere la propria porta, però, ma i diritti umani in Ucraina. Paese che con la Polonia ospita il campionato e che, ironia dei sorteggi, vedrà l'esordio della nazionale tedesca negli stadi di Kharkiv e Lviv. Le notizie sempre più preoccupanti sull'ex premier Yulia Tymoshenko, da tempo in carcere in condizioni pare molto dure e con seri problemi di salute, accertati anche da medici tedeschi, hanno fatto sì che il presidente tedesco Gauck non confermasse la partecipazione al summit dei presidenti dell'Europa centrale in programma a Yalta. Non è un rifiuto, ha detto il suo portavoce, ma la lunga e nota militanza del presidente nei gruppi di opposizione al regime comunista della DDR ha dato da pensare. E comunque l'intero governo tedesco si sta spendendo per la Tymoshenko, dal cancelliere Merkel ai ministri degli esteri, della giustizia e dell'interno. Intanto, in segno di protesta per le violazioni ai diritti umani in Ucraina, la commissaria europea alla giustizia Reding ha formalmente annunciato che non assisterà alla partita di apertura dei campionati europei. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ora andiamo a Perugia, dove è in corso il Festival Internazionale del Giornalismo. Tema centrale, anche in questo caso, la crisi e la disoccupazione giovanile in Europa. Ce ne parla Gigi Donelli. Sì, buonasera Cristina. Qui a Perugia, naturalmente, come sapete, sono numerosi anche i temi europei e purtroppo, devo dirlo, centrale in queste giornate è quella della crisi, della disoccupazione giovanile. Un dibattito che si è svolto appunto in giornata, venerdì nel pomeriggio, sulla necessità di assicurare una governance europea al tema occupazionale e della disoccupazione soprattutto, è stato piuttosto animato con molti giovani professionisti che chiedono di fatto informazioni e percorsi di accesso alla professione. Ecco, tenete conto che su 1.600.000 cittadini europei che hanno perso il proprio posto di lavoro dalla primavera del 2011, a fronte di questo dato c'è anche quello di una disoccupazione giovanile, cioè compresa tra i 15 e i 25 anni, che in alcuni paesi del sud Europa, in particolare Grecia e Spagna, sfiora il 50%. Dunque una situazione non semplice e davvero poco spazio per delle formule risolutive. Quello che emerge, almeno nel tentativo di non chiudersi nel pessimismo, è l'urgenza, l'esigenza di affermare e insistere sulla formazione professionale, sull'apprendimento dei nuovi linguaggi. Con questo non voglio dire non solo le lingue straniere, quindi aprire di fatto il proprio mercato professionale al di fuori dell'Italia, ma anche quelli delle nuove tecnologie. Purtroppo devo chiudere affermando che anche qui si registra pienamente la difficoltà di questo tempo. La professione giornalistica è solo una parte della storia, ma ne rappresenta piuttosto bene, direi, anche qui da Perugia, tutte quelle che sono le difficoltà, le complessità del momento. Da Perugia per ora è tutto, la linea torna allo studio. Il Mein Kampf nelle scuole tedesche, si rompe un tabù in Germania. Ufficialmente è soltanto una questione di diritti d'autore. Il Land tedesco della Baviera ha deciso di pubblicare nel 2015 una nuova edizione commentata del Mein Kampf di Adolf Hitler, il libro base dell'ideologia nazista. Sarà disponibile anche per le scuole in versione semplificata, una scelta destinata ad accendere discussioni, ma che esponenti della comunità ebraica tedesca hanno già giudicato come positiva. La Baviera possiede i diritti d'autore del Mein Kampf e finora ha sempre negato il permesso alla sua pubblicazione pubblicazione in Germania, ma 70 anni dopo la morte di Adolf Hitler il testo diverrebbe di pubblico dominio e c'è il rischio che venga riproposto in volume da gruppi estremisti di destra. Il divieto, del resto, è già stato aggirato via internet, attraverso cui si può scaricare il Mein Kampf anche in tedesco. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stop al commercio di cannabis ai turisti stranieri. Il tribunale olandese ha confermato il divieto di vendita libera nei coffee shop a chi viene dall'estero, consentendo l'accesso solo a gente del posto. Si tratta di una decisione controversa, già etichettata come discriminatoria dai gestori dei locali. La legge entrerà in vigore in 3 province del sud il 1 maggio, prima di essere estesa a tutto il paese entro il prossimo anno. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Cristina Carpinelli. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.